9 in punto, la versione di Oscar. Oh, safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Ed eccoci qua, sempre con i Doors. Buona giornata anche oggi, buon mercoledì 1 febbraio, San Verdiana. Il tema della puntata di oggi, a proposito di statistiche record di disoccupazione giovanile e di emergenza lavoro, che è giustamente e comprensibilmente il tema su cui molti quotidiani aprono questa mattina, con un tasso di disoccupazione generale che supera il nostro paese il 9%, e con un giovane su tre che è disoccupato, è un tema collegato a questo, anche se attira poco l'attenzione di solito nel confronto pubblico nazionale. Sembra più un tema per specialisti o per eccentrici. Naturalmente io ricado nella seconda categoria, e allora lo mettiamo al centro della puntata di oggi. Il tema è il valore legale del titolo di studio. Sapete che il governo ha annunciato una consultazione nazionale su questo tema, perché è innanzitutto diviso, anche ha opinioni diverse anche al suo interno il governo, perché per esempio il ministro della giustizia Paola Severino, che pure viene da un'università privata, la LUISS, che parentesi è anche l'università di Confindustria, ma chiusa parentesi, paradossalmente, o forse proprio per smentire che porta nel governo poi la voce delle università private, nel giro di tavola che già due volte c'è stato in Consiglio dei Ministri su questo tema, ha detto di voler difendere invece il valore legale del titolo di studio. Allora vedremo con i nostri ospiti come la pensano. Abbiamo due ospiti che sono su opinioni contrapposte, e chiedo a voi, se siete universitari, se avete un figlio che va a scuola all'università, se siete stati all'università, se siete docenti universitari, comunque di telefonarci, perché oggi diventiamo parte di questa consultazione nazionale che ha aperto il governo. Quindi siete favorevoli o contrari al valore legale della laurea, del diploma? Vedremo anche che cosa vuol dire bene cancellare il valore legale della laurea. Intanto, come sempre, due minuti, tre minuti su la rassegna stampa internazionale, per così dire, ciò che mi ha più colpito stamattina dalla stampa internazionale, collegato al tema di apertura e di chiusura di tutte le nostre puntate. Doors, perché per la crisi dell'eurodebito, perché il 17° eurovertice in 24 mesi di lunedì, il fiscal compact l'ha adottato, sì, grande vittoria tedesca, ma in realtà è che la risposta, se c'è un meccanismo cooperativo adeguatamente finanziato per risolvere il problema greco tra pochi giorni o settimane, il mercato non sa se c'è o non c'è, e quello sarà la vera risposta per la tenuta dell'euro, perché altrimenti dopo la Grecia c'è il Portogallo, e dopo il Portogallo, lo sapete, ci siamo anche noi. Che si dica e si pensi che abbiamo già fatto i nostri compiti a casa, perché il problema con un debito pubblico di queste proporzioni non è la tenuta nel medio lungo. La tenuta nel medio lungo noi possiamo già garantirla, la si poteva garantire col governo precedente. Il problema è la tenuta a breve, quando ci sono così ingenti stock di debito da ripiazzare e i tassi sono così elevati che vengono immediatamente inglobati dal sistema bancario, quindi vanno alle imprese, all'economia, e l'economia scende. Allora vediamo un pochino quali sono le notizie che mi hanno colpito. Sul Financial Times Deutschland stamattina si dice che le pressioni della Troica, cioè quella composta da BCE, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, sul tavolo più delicato, esattamente quello della trattativa per il taglio, per l'abbattimento del valore del debito pubblico greco in circolazione, che queste pressioni sarebbero vicine a ottenere il successo definitivo. Questo successo definitivo addirittura annuncerebbe un accordo prima del prossimo fine settimana, entro i giorni di apertura di borsa. Non so se queste voci dal Financial Times Deutschland vengono alimentate per tenere sulla borsa in questi giorni. Il sospetto mi viene, ovviamente, perché siamo su andamenti che di giorno in giorno dipendono praticamente esclusivamente da questo, quindi capite che è un po' facile lanciare questi annunci per poi sperare nell'effetto che fanno sul mercato. Ma in ogni caso La tesi del Financial Times Deutschland è che le pressioni sul governo tedesco sono tali che in realtà l'abbattimento complessivo del debito pubblico greco, sommando il 50% che è sul valore nominale più il riscadenzamento a 30 anni della parte rimanente per un tasso di interesse più basso di quello che i creditori privati si aspettavano, potrebbe andare fino al 75%, ecco, il 75% inizierebbe a diventare un abbattimento complessivo per il quale, con un po' di fortuna, se la recessione greca non è troppo pesante, si arriva al fine di questo decennio a un debito pubblico del 120% e non del 130%. Dai, che bella prospettiva. Allora, si attendono a questo punto, dicono report di questa notte di Bloomberg e di Reuters, conferme a questo schema. Perché davvero sia questa la storia di abbattimento, bisognerebbe che i tassi trentennali di riscadenzamento greco avessero un tasso di interesse intorno al 3,3-3,4% e non sul 3,6-3,7-3,8% che era quello che le banche si aspettavano. I giornali greci sono sufficientemente ottimisti, li ho visti stanotte, Katemeri, nella loro versione inglese online, e annunciano tra l'altro che al successore probabile alla guida del PASOK dei socialisti, perché sapete che questo governo di Lukas Papademos, un governo dei tecnici greco, in realtà ha un altro mandato a tempo, perché poi bisogna andare a votare e quindi ci si confronterà alle urne sull'esito di questo accordo. Quindi se non è un accordo che dà prospettiva alla Grecia, perde di nuovo chi l'ha fatto e diventa una specie di sliding doors le successive elezioni greche. Comunque a questo punto il ministro delle finanze Evangelos Venizelos, se è riuscito a ottenere questa roba, diventa con ogni probabilità il candidato alla guida del PASOK, del Partito Socialista, al posto di Papandreou. In un'intervista sempre a Katemarini, che veniva rilanciata dal giornale greco dal capo della delegazione del Fondo Monetario Internazionale, Paul Thompson, apriva una prospettiva per la prima volta che consente evidentemente a qualcuno di vincere le elezioni, perché dovete sapere che parte di questo accordo è abolire la tredicesima e quattordicesima per il resto delle categorie greche che ancora ce l'hanno, perché più di metà l'hanno già persa in questo anno e mezzo di trattative. E per la prima volta il capo della delegazione del Fondo Monetario dice: se ci fosse una riforma che accettasse di abbassare il salario orario minimo, allora potreste tenere la tredicesima e quattordicesima per chi ce l'ha ancora. Ora, questo, io richiamo questi particolari solo per far capire cosa ci aspetta se non c'è un compromesso che sostenga il debito pubblico greco. Inevitabilmente si incide nella carne, molto più in profondità di quanto gli italiani abbiano visto fino a questo momento, e la cosa, se arriva al fondo, potrebbe riguardare anche noi. Allora, la Merkel intanto annuncia Spiegel online stanotte, si appresta a un giro in Cina per convincere i cinesi e Pechino che le difficoltà dell'Eurozona sono oramai, dopo il fiscal compact, alle spalle. Sono davvero alle spalle? Io credo di no, la colpa non è solo dei tedeschi, ma di questo continuo gioco al rimpiattino complessivo della politica europea. Intanto l'Esecco Francia, andiamo alle elezioni presidenziali in cui il vantaggio di Hollande su Sarkozy è sempre più elevato, cioè del candidato socialista. E perché è più elevato? Perché altre notizie arrivano sui giornali di oggi ai francesi, per cui il consumo di beni della manifattura, di energia e di beni alimentari è sceso di un altro 0,5% nel 2011 sull'anno precedente, ed è il maggior calo dal 1997, perché anche negli anni difficili 2008-2009, scrive l'Esecco, l'economia francese non aveva conosciuto cali così significativi, perché per via del calo dei servizi complessivi oramai l'economia francese è praticamente scesa sotto zero nell'ultimo trimestre e nell'anno complessivo poco superiore allo zero, perché i consumi rispetto al PIL francese pesano molto più che da noi. Allora, abbiamo poi due ultime segnalazioni. In un articolo sul Financial Times, Lorenzo Binismaghi, che era il membro italiano del board, lo sapete, prima di Mario Draghi, che poi ha assunto la presidenza alla BCE, Lorenzo Binismaghi scrive sue tre fondamentali critiche sulla politica monetaria della Fed, però non di quella della BCE, è anche incomprensibile che ex membri del board della BCE non scrivano sulla propria banca. È un po' singolare che ex membri della BCE si esercitino però sulla politica monetaria americana. Comunque, per gli interessati, leggetelo. E ultima, conclusiva, mio richiamo, sempre sul Financial Times c'è un editoriale di Martin Wolf, che io condivido abbastanza, in cui critica il fiscal compact adottato lunedì. Perché lo critica Martin Wolf? Perché manca della necessaria comprensione, della consapevolezza, della dipendenza dell'output, del prodotto di ogni euro membro rispetto alla domanda degli altri paesi. Primo. Seconda osservazione, perché non affronta il problema dello sbilancio dei pagamenti interno, cioè del fatto che c'è un avanzo commerciale molto forte dei tedeschi rispetto agli altri paesi europei. E perché in fondo non mette l'aumento della competitività e della produttività di ciascun paese, che è troppo esposto sulla Germania, come ribilanciamento per chiedere alla Germania poi di adottare una politica per la quale il suo eccesso di attivo estero, si può così dire eccesso, che è un eccesso di virtù, debba essere compensato da seri programmi di produttività per gli altri paesi. Sono tre critiche che, come vedete, non si limitano alla prima, quella di dire i tedeschi sono cattivi, ma continua a richiamare la responsabilità verso riforme che alzino la produttività dei paesi euromembri, invece di lamentarsi solo perché manca la banca, il prestatore di ultima istanza. E secondo me la faccenda della produttività è quella che manca un po' ancora a tutti nel nostro paese. Io continuo sempre a dirlo, bisogna darsi un programma per il quale dal 24 milioni scarsi, 23 milioni, in realtà sono 22 milioni, scesi 22 milioni degli occupati, visti chi ha perso il posto di lavoro in questi due anni, ma se ci aggiungiamo il nero ce n'è un altro 2, 3, 4 milioni almeno non censiti, ma la realtà è che noi dovremmo darci un programma per arrivare intorno a 40. Sì, 40 milioni di occupati entro fine decennio, perché noi a oggi abbiamo 12 e più punti di occupati in meno della Germania. Noi siamo scesi al 56,8%, loro sono al 71%, e la verità è che noi dobbiamo salire come classi di occupati ufficiali, sia nella fascia giovanile, sia nella fascia sopra i 55 anni, sia nella fascia femminile. E per fare questo, per una rivoluzione di questa portata, è inutile illudersi che sia la domanda pubblica, è inutile illudersi che possa avvenire con questi tassi di pressione fiscale, è inutile. Dobbiamo sapere tutti che bisogna cambiare mentalità in molti parti di organizzazione del mercato del lavoro italiano. Bisogna accettare cose che a molti sembrano inaccettabili, perché siamo abituati a una vita un po' troppo comoda, e purtroppo la facciamo pagare a milioni di italiani che non hanno lavoro e campano con poche centinaia di euro al mese. Ma se non ci diamo una prospettiva di questo tipo, allora è un po' difficile pensare che possiamo reggerci, perché la produttività è troppo bassa e perché ci illudiamo troppo che sia lo Stato la soluzione. Per me lo Stato è il problema. Ieri, leggendo l'intervista di quel grande galantuomo che difendo sempre, di Attilio Beffa, a Repubblica, pagina 2-3, quando a un certo punto ha lamentato di avere troppi pochi dipendenti per la lotta all'evasione fiscale, troppi pochi dipendenti, dice: i miei dipendenti sono solo 30.000, ma benedetto uomo, quanti te ne dobbiamo dare? 500.000 solo per l'Agenzia delle Entrate? Ecco, purtroppo la fame del settore pubblico è questa. In questa grande rivoluzione per la produttività, dibattito che facciamo questa mattina, può dare un contributo positivo, e di che tipo? A sbloccare il mercato del lavoro, ad alzare la contesa per il merito e anche a scrostare il sistema di formazione pubblico. L'abolizione del valore legale del titolo di studio. Cosa vuol dire il valore legale del titolo di studio e cosa vuol dire superarlo? Vuol dire, per esempio, eliminazione del vincolo del tipo di studio per l'accesso ai concorsi pubblici. Poi vuol dire eliminazione del valore di voto di laurea sempre nei concorsi pubblici. E perché parlo dei concorsi pubblici? Parlo dei concorsi pubblici perché in realtà noi facciamo finta di non vedere, ci nascondiamo dietro un dito, che il sistema delle imprese, il mercato privato, da decenni, da almeno 20 anni, dai frutti dell'università di massa, che ha abbassato nella media da molte parti il valore dell'offerta formativa, perché non è vero che le lauree prese dovunque sono dovunque uguali, non è vero che chi ha 110 preso da una parte equivale a chi ha 95 preso in un'altra università. E il sistema delle imprese e l'economia privata, questo ha imparato H3 capirlo e a distinguerlo da molti anni. Quindi nel settore privato la verità è che il valore legale del titolo di studio non vale già di fatto da un bel pezzo. E invece su questo noi abbiamo fatto proliferare nel sistema universitario sedi, cattedre, insegnamenti, discipline, con la scusa che bisognava offrire l'università di massa e questo era da offrire tutti uguali a tutti, come se fosse l'eguaglianza dei punti di partenza. Ma nel settore privato questo non vale più. Però nel settore pubblico vale come? Per questo, intanto, abolizione del valore legale significa, lo spiego a chi non l'avesse ancora capito, eliminazione del tipo di studio per l'accesso ai concorsi pubblici, eliminazione del valore di voto di laurea nei concorsi pubblici. Ma poi significa anche valutazione differenziata appunto della laurea a seconda della qualità della facoltà e università di provenienza e quindi eliminazione e riduzione del peso della laurea complessivo e anche a quel punto entrare in un mondo, e ho finito, nel quale proprio per questo noi rendiamo l'autonomia delle diverse università non il pallido feticcio che poco significa che è rimasta ancora nella riforma Gelmini, ma invece differenziandole davvero per come vengono valutate, per la qualità della loro offerta, le università diventerebbero inevitabilmente differenziate per qualità, con diversa qualità di attrarre risorse private, oltre a quelle pubbliche, diversa qualità e capacità di avere risorse per pagare le retribuzioni più alte senza le quali non si attirano insegnanti di eccellenza. Non inorridite per favore dicendo gli insegnanti di eccellenza sono solo quelli che vengono pagati di più. Come in tutti i sistemi competitivi è così. Per me abolizione del valore legale a titolo di studio significa anche in prospettiva rinuncia da parte dei professori universitari alla loro qualifica omogenea uguale per tutti di dipendenti della pubblica amministrazione. Finché sarà così non sarà possibile nelle università italiane, tranne che in quelle private, avere delle tenure, delle cattedre fisse in cui si chiamano i premi Nobel internazionali, perché non lo puoi far diventare dipendente della pubblica amministrazione. Allora, fine della mia introduzione e della parte europea, sentiamo da questo momento come la pensano i nostri ospiti e poi sentiamo la vostra opinione. A confrontarsi sul tema abolire o meno il valore legale del titolo di studio ci abbiamo il professor Giulio Sapelli, che conoscete e chiamiamo spesso, insegna storia economica alla Statale di Milano. Buongiorno professor Sapelli. Buongiorno, caro amico Giannino, a lei e agli ascoltatori. È il rettore dell'Università di Bari, il professor Corrado Petrocelli. Grazie e buongiorno. Buongiorno rettore. A lei. Buongiorno. Allora, rettore, noi abbiamo letto che lei ha dei dubbi su questo tema e su questa abolizione. Fondati su che cosa? Ma intanto io la ringrazio per questa lunga introduzione. Mi consentirà di dire che dopo questa introduzione diventa non facilissimo intervenire, perché lei ha dato una serie di elementi nella sua lettura che per alcuni tratti io condivido, le dirò, per altri avrei delle perplessità. Ha dato un'idea del sistema universitario già definita. Se si dà un'idea di quel tipo sembra che ci sia poco spazio per argomentazione. No, ma è il contrario, perché io dichiaro il mio punto di vista, ma il punto di vista che vale di più è il vostro, che siete gli operatori, il mio no, sono un conduttore. Per carità, allora guardi, il problema è si può essere bravi, voglio dire, a prescindere. Lei ritiene davvero che solo perché qualcuno si è laureato in una certa università egli è certamente migliore di un altro che si è laureato in un'altra università, che avrebbe un altro valore secondo ciò che lei ha detto? Lei ritiene davvero che il peggiore dei laureati di un'università cosiddetta di una determinata serie è sicuramente migliore del bravissimo, del più bravo dei laureati di un'altra università? Io non credo che è così che si debba procedere. Credo che si debba procedere in modo tale da costringere le università a erogare effettivamente quello che spesso promettono soltanto. E quindi ci debbano essere dei rigorosissimi controlli. Chi dice che noi non vogliamo la valutazione sbaglia, chi dice che noi non vogliamo l'accreditamento sbaglia. Il problema è che si deve procedere con dei criteri che siano equi, condivisi e stabiliti a monte, dopodiché il resto viene da sé. Poi quanto a tutta una serie di realtà e ai problemi su quello che deriverebbe dopo dalla scelta, per esempio da parte degli ordini professionali, e lì ci sarebbe da discutere e discutere molto, naturalmente. Io credo che non si debba dare al cosiddetto pezzo di carta un valore eccessivo, un valore che certamente non deve avere, ma non si possa nemmeno legalizzare il valore differenziato del titolo di studio, cioè non si stabilisce per legge l'eccellenza. Mi permetto di dire soltanto un'ultima cosa. Diciamo, prendiamo il rapporto più recente che c'è stato sul 3+2 della Fondazione Agnelli, così non è di parte e credo possa essere un vantaggio per tutti. È stato riscontrato che sia per i laureati triennali che per i laureati delle magistrali le aziende in Italia come in Europa non guardano tanto qui, e in questo che mi permetto di dissentire un po' da quello che lei ha detto, all'università di provenienza, ma guardano essenzialmente alle competenze e alla preparazione del laureato, cioè effettivamente alla qualità del laureato, a quelle che sono le sue acquisizioni, e a questo bisognerebbe guardare anche in qualunque tipo di concorso, cioè a quella che è la preparazione del candidato, appunto, che non dovrebbe essere prova a prescindere. Però, signor Rettore, lei in questo ha detto esattamente, mica dissentiamo, lei ha detto che il sistema privato non mica guarda l'università e il titolo, ma valuta le qualità. Perché non farlo nella pubblica amministrazione? La mia impressione è che questo serva al piede paritario per i trasferimenti del sistema universitario italiano, delle oltre 80 università italiane, che ha proliferato, come sappiamo, e che chiede trasferimenti, e che confonde l'orizzonte di finanza pubblica nella quale obbligatoriamente siamo stati costretti a entrare. E per fortuna, questa è anche la mia speranza, e io annuncio anche tutte le mattine che secondo me dovremmo entrare in un orizzonte per la quale abituare i cittadini, che forse avremo servizi più efficienti se entriamo in una prospettiva come quella tedesca, cioè di 7 punti di PIL e 7 punti di pressione fiscale in meno in 7-8 anni, come ha fatto la Germania, che è una democrazia welfarista, mica è la giungla. E allora in quell'orizzonte lì continuare a dire che noi abbiamo bisogno, i tagli ai trasferimenti, l'università ha bisogno di più soldi fatti sul piede paritario perché è pubblica amministrazione e perché c'è il valore legale, ecco, io penso che sia una catena di Sant'Antonio, probabilmente, però signor Rettore mi sbaglio, ma che nel sistema privato, come dice la Fondazione Agnelli, non si guardi a quello ma alla qualità del candidato, significa appunto che per il sistema privato il valore legale è un feticcio, e allora superiamolo però a tutti gli effetti. Può essere che io assolutamente sia come al solito un po' estremista. Ieri mi ha molto colpito, mi rivolgo a Sapelli, che presentando il rapporto di certificazione dell'OCSE per il sistema universitario dell'alta formazione Lombardia, è la prima volta che la Lombardia si apre a una certificazione esterna come quella dell'OCSE, ed è venuto fuori un bellissimo lavoro che da una parte individua i punti di eccellenza delle oltre 15 università lombarde, dall'altra segnala che ovviamente c'è molto ancora su cui lavorare. Uno dei punti delle 41 raccomandazioni che l'OCSE faceva al sistema della formazione universitaria lombarda era esattamente quello di accettare forme di accreditamento ex ante ed ex post, fatti il benchmarking internazionale superando il valore legale del titolo di studio. Questo lo diceva anche l'OCSE. Devo riconoscere che nel dibattito che io stesso moderavo, sia il rettore del Politecnico di Milano sia il rettore dell'Università di Bergamo Palmieri, sia Azione che Palmieri, mi hanno detto: no Giannino, quello non è affatto per noi il primo problema, siamo anzi molto colpiti che si faccia una consultazione pubblica su questi problemi, sono ben altri. Riporto la loro opinione. Il professor Sapelli che pensa? Il professor Sapelli è un po' sconcertato dalla retorica che su questa questione ci sia. Dunque c'è un problema generale di fondo, dobbiamo ampliare la base produttiva e radicalmente riqualificare il lavoro in tutti i suoi aspetti, anche in quello che un tempo si chiamava manuale, oggi invece e di tipo applicativo con dei sistemi avanzati. Quindi bisogna ridurre il numero dei laureati, non aumentarlo. Questo prodismo d'accatto che è stato, su cui hanno invaso le teste degli europei, queste statistiche, i paesi che hanno più laureati sono più avanzati, tutte stupidaggini. Quello che conta per la crescita economica è naturalmente una buona istruzione tecnico-scientifica. Prima cosa, quindi noi in Italia abbiamo troppi laureati in materie inutili, comunicazione, tutela del paesaggio, tutte cose su cui potremmo vivere benissimo facendone a meno. Il 3+2 ha distrutto l'università italiana perché ha favorito gli insegnanti che fanno solo didattica e non studiano e gli studenti che non hanno voglia di studiare. I liquami del 68 sono ancora attivi e il fatto che ci siano agenzie di valutazione esterne, su cui io sono profondamente contrario, perché per fare questo cambiamento ci vorrà almeno un decennio. Non possiamo farlo di nuovo con una mano statalistica. Questa agenzia di valutazione che valuta con criteri strani, per esempio i titoli sono solo quelli in inglese, ma scusate, mica tutti siamo economisti neoclassici un po' stupidelli che sanno solo fare delle equazioni. voglio dire, se io pubblico su una rivista portoghese che in sociologia e antropologia culturale è una delle migliori del mondo, analisi sociale, non vedo perché non devono essere pubblicate. Poi chi sono quelli che valutano? Deve entrare nel nostro sistema, nelle cellule, in primo luogo dei miei colleghi universitari, che voglio dire, basta vedere come sono organizzate le riunioni, cominciano sempre alle 10:30, alle 11, cioè vuol dire che per loro il tempo non è lineare ma è circolare, no? Ecco, quindi c'è tutto un sistema che va radicalmente mutato, meno professori, meno studenti, studenti meritevoli, professori di eccellenza, perché scrivono. Il centro non deve più essere la riproduzione dello studente con la valutazione che le università che vanno meglio sono quelli che laureano tutti. Prima si andava all'università, ai miei tempi da studente solare l'ho fatto, si entrava in centro e si usciva in 20. Bisogna ritornare così. Adesso invece il verbo è che si entra in 100, bisogna uscire in 100. Soprattutto le università private spiccano in questa cosa, perché vivono sulle tasse e devono farlo. Quindi questa cosa tra privato e pubblico assolutamente un'altra balla assoluta, mentre abbiamo università meridionali statali che funzionano benissimo, perché è rimasto un nucleo di professori animati dal fatto che l'università riproduce la cultura tecnica, scientifica o umanistica stessa sia. Allora, ben venga finalmente questa abolizione del titolo legale, io sono anni che l'aspetto, ma questo cosa vuol dire? Perché questo sarà un incentivo alla riforma della pubblica amministrazione, perché come diceva giustamente lei, caro Giannino, voce inascoltata nel deserto, un giorno o l'altro lo gambizzeranno dal punto di vista intellettuale naturalmente, non dal punto di vista fisico, e che cos'è? È che finalmente anche il burocrate della pubblica amministrazione sarà, come si diceva prima, costretto a valutare la persona, si metterà la persona al centro, le sue capacità rispetto al compito cui ha chiamato e rispetto al profilo di carriera e di performance che è chiamato. Gli strumenti di assessment che vengono usati in tutte le imprese private, per questo non gliene frega nulla del titolo di studio, perché ormai la persona si valuta con una serie di test psicologici, attitudinari, di stage, che nella pubblica amministrazione non esistono. Se io basta andare nelle università, la maggioranza, devo dire, delle persone parlano ancora nelle università, soprattutto io ho fatto il responsabile dell'Erasmus per 15 anni in università. Sapevano due lingue, il dialetto d'origine è l'italiano, ecco, ma non sapevano né l'inglese né il tedesco, quindi c'è da riformare la struttura universitaria e poi c'è da mettere in competizione l'università, ma non selvaggiamente, perché l'università non sarà mai un elemento di mercato, l'università deve competere sull'eccellenza. Dobbiamo cominciare a capire che l'università è un common goods, è un bene comune, che è un bene comune non è assolutamente solo per la locazione di diritti di proprietà, ma perché è gestito con sapienza da coloro che lo usano. Questa è la via, è una via difficilissima. Io per esempio sogno una serie di università not for profit, che vivono… Giusto. Not for profit, perché bisogna avere un'università profit? Ma io ho lasciato i comitati di orientamento di un paio di università perché vedevo che coloro che le avevano fondate, andavo come comitato due volte all'anno e vedevano che sparivano alcuni professori. Mi dicevo, come mai? Ma perché ne bocciano troppi? Qui ragazzi bisogna fare i soldi. Questa era la mentalità. Giusto, questo non giusto. Va bene, figlio mio. Tu devi tenere quella materia anche se mi stermina 30 persone giusto. All'anno. Ecco, perché l'università non può essere un elemento di mercato. L'università dipende dalla cultura, che è un common good, ma allora bisogna dire che ci siano gli studenti, le famiglie che sono state la disgrazia di questa dell'università italiana, le famiglie, classi medie, limacciose, perché il titolo se il ragazzo non va a scuola, non ha l'università, se non ha la laurea. Io vedo questi disperati che vengono a assistere alle sedute di laurea e io piango cristianamente e soffro per loro. Lo dico, ma dovete essere contento se è un buon perito il vostro figliolo, se è un buon cuoco. Ma uno che, insomma, voglio dire, adesso lascio perdere e poi dopo di. Quindi questo richiede una rivoluzione culturale. Non mi stupisce che il governo Monti che picchia i taxisti e rapina le vecchiette, oltre a fare tante cose buone, voglio dire, insomma, questa cosa con le pensioni, come lei sa, io l'ho preconizzata da anni, ma queste robe si fanno in 5-6 anni, devi mantenere, rispettare il ciclo di vita, no? Questo è il governo della crudeltà tecnocratica, no? Poi insomma basta vedere da dove vengono. Insomma, lasciamo perdere. chiaro che però crudeltà tecnocratica fosse vero interverrebbero, no. Mentre invece poi sono divisi e mi pare che poi non lo fanno questa roba del valore legale. Ogni paese ha i tecnici che si merita, Giannino, dai, insomma, non andiamo avanti. Dire la verità, ogni paese se ha gli universitari, e gli universitari alla fine se vanno al governo sanno che la maggior parte delle professioni universitarie è contraria perché difendono, ma magari per altre buone ragioni. Il rettore ci ha fatto un discorso che non è fondato sulla difesa del valore del professore universitario nella pubblica amministrazione, ha dei dubbi, però io credo che la stragrande maggioranza, posso sbagliare, dei professori universitari sono per la difesa del valore legale. Lei che, scusi signor rettore, aspetti, andiamo in pubblicità perché io sono in ritardo di 5 minuti sulla pubblicità, ma poi torniamo su questo, sulla valutazione, a cominciare dal rettore da Sapelli di quale sia l'opinione dei docenti universitari italiani. Eccoci tornati in studio per il professor Petrocelli. Secondo lei, sicuramente è rettore, quindi avrà un polso di sicuro nel suo ateneo, ma non solo in quello, nella conferenza dei rettori, anche tra i suoi colleghi rettori. L'impressione è che tra negli addetti ai lavori, in chi insegna, in chi è poi la spina dorsale dell'università italiana, questo tema come viene considerato? Ho sentito che prima lei citava anche il rettore di Bergamo. Sì. Sì, professor Paleari, la tua esperienza conosco bene, il cui pensiero io condivido anche in relazione a questa vicenda del valore legale. E l'opinione è variegata, ma noi abbiamo, come lei diceva, il polso della situazione, e sarebbe bene, come si diceva prima con il nostro collega, il nostro illustre interlocutore, anche per sapere, definire la necessità di sgombrare il campo dagli slogan. È venuto fuori l'altro giorno un articolo sul Sole in cui un sostenitore di questa abolizione diceva: siamo sicuri che i maggiori difensori dello statu quo saranno baroni, sindacati e studenti lazzaroni. Non è così, naturalmente, che noi possiamo procedere, non c'è una divisione. Mi pare che dalle argomentazioni che sono state usate, noi abbiamo rilevato che in Europa l'istruzione universitaria è considerata un bene pubblico, e su questo credo siamo tutti d'accordo. Devo anche notare che il regime autorizzativo è presente in forme diverse in tutti i paesi dell'Unione Europea. Qui condivido il fatto che noi ci sediamo a un tavolo come quello di Europa 2020, in cui viene chiesto a tutti i paesi di raggiungere il 40% del numero dei laureati, e noi diciamo sì, e invece siamo lontanissimi, e non si capisce come potremmo raggiungere questo obiettivo, mentre invece abbiamo bisogno di differenziare. Ci sono delle lauree che non potranno mai, per quanto si sforzino, dare vita a percorsi professionalizzanti come quelli che il mondo produttivo vorrebbe, e allora si stanno creando gli istituti tecnici scientifici di alta specializzazione, e speriamo che questi vadano bene. Non parlerei tanto di lauree di cui abbiamo bisogno, di lauree utili o di lauree inutili, direi soltanto che dobbiamo evitare una provvedimento che potrebbe finire di definire un valore legale maggiore ancora di quello che si vorrebbe abolire. Quando parlavo del peggiore dei laureati di serie A o di serie B, perché c'è nella testa di qualcuno l'idea di creare degli atenei di serie A o di serie B? Alle volte si ha quasi l'impressione che dia fastidio che le eccellenze ci siano disseminate nei vari atenei. Vorrei su due questioni rapidamente chiudere. La prima è questa: la laurea, ovunque conseguita, secondo me deve costituire un titolo di accesso, ma ogni altro aspetto di merito deve essere accertato come un esame, accertato dai test, come si diceva prima. Oggi non è più come prima, oggi gli studenti si sottopongono ad una serie di test prima di entrare, per cui si individuano anche alcune loro lacune, sia all'inizio, sia fra la triennale e la magistrale. Poi anch'io ho delle riserve sul 3+2, quindi per carità. Non è questo l'aspetto. Secondo punto, mi fa piacere aver ascoltato alcune argomentazioni. Allora, si sappia che ci sono dei criteri con i quali si definiscono le premialità oggi tra gli atenei, e tra questi si ripartiscono anche le risorse in base a questi criteri, sui quali noi non siamo d'accordo perché non riteniamo siano di qualità. Per esempio, sulla didattica si deve valutare il numero di crediti che uno studente prende fra il primo e il secondo anno, e questo finisce col penalizzare paradossalmente gli atenei dove si è più rigorosi. Verissimo. E quindi detto abbiamo una volta letto, signor rettore, la formula che stabilisce l'alchimia, infatti, del peso dei crediti, con molte risate tra chi ci ascoltava, perché è veramente una cosa alchemica, ma l'effetto, condivido, è esattamente, è tornato anche ieri nel rapporto OCSE sull'Università Lombarda, questo è esattamente questo tema. Prego, scusi, sono interrotto. Questo non lo vorremmo perché implica una concorrenza, che è una concorrenza a ribasso, esatto. Perché ci sono vari tipi di concorrere e purtroppo io però vorrei dire che se avete letto il report, l'ultimo ranking Scimago, ne viene fuori una classifica delle università italiane che non è male, lì si crea una media mondiale che è pari a 1. Ora voglio dire, ci sono atenei notevoli, soprattutto oltreoceano pochi, che arrivano anche a 3-4. Gli italiani superano la media piazzandosi tra 1 e 1,50 e 1,55, ma soprattutto non c'è nessuna università che scende sotto 0,90, mentre negli altri paesi abbiamo università anche a 0,5 e 0,10 che sono il corrispettivo di un nostro liceo anche mediocre. Sì. Questo vuol dire che questo sistema, nel bene e nel male, è comunque abbastanza omogeneo, produce una buona ricerca. E la didattica buona si può fare solo se c'è buona ricerca. Vede, professore, su questo è il punto, sulla sufficiente omogeneità in una fascia, diciamo, tra il decoro e il meno della media internazionale, più o meno questa, tra il decoro e il meno della media internazionale, senza punte disastrose da paese avanzato dell'est, o come ci sono in molti stati americani, anche, ma però con pochissime eccellenze vere. Ecco, l'omogeneità, a differenza della varietà che consente un'amplissima diversificazione di forbici, è proprio questo il punto, secondo me, centrato su cui fare una scelta di fondo, cioè come accetterebbero coloro che selezionano nel mondo pubblico, dove va il concorso, accetterebbero di selezionare le università secondo un ranking fatto dall'Ambur, e a quel punto sui criteri dell'Ambur per selezionare le università con un ranking di qualità, cioè significa mettere la più elevata percentuale in un'unità di tempo ristretta di studenti laureati lì che trova posti di lavoro con le retribuzioni migliori e così via, anche per le università sarebbe accettabile, visto che sui criteri di valutazione, lo sa meglio di me, è un altro fatto su cui si è aperto un confronto molto serio e anche lì non risolto. Questo potrebbe essere un sistema, secondo lei? Te riparte la musica dei Doors per ricordarci sempre la temperie e l'orizzonte in cui viviamo, quella della crisi di un continente. Pensate che ieri ci siamo rifatti i conti con alcuni ex amici di studi di formazione terziaria e secondo i numeri dell'OCSE, se si fa il conto di tutti gli entitlements, cioè dei diritti acquisiti che oggi stanno nella pipeline dei sistemi di welfare pubblico al mondo, il 58% del totale del debito pubblico in formazione per welfare pubblico è tutto concentrato nei 17 paesi dell'euroarea, il 58% del resto del pianeta. Ora, se voi pensiate che resti tutto perfettamente sostenibile con i livelli di crescita che abbiamo, con la curva demografica che abbiamo, con i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, che nel nostro caso l'Italia, bassi che abbiamo, io vi faccio gli auguri. Il problema non è dei cattivi tedeschi, e il problema è che qui c'è una questione di legge di gravità. Allora, rettore, lei pensa che almeno su ranking terzi fatti con criteri condivisi, qualche passo in avanti nei decreti di attuazione della riforma Gelmini si faranno, secondo lei? Secondo me sì, è l'unico sistema che noi abbiamo, purché i criteri, come diceva lei, siano fatti da terzi e non ritagliati a misura su qualcuno, purché siano condivisi e soprattutto, se è consentito, si conoscano prima, perché che noi dobbiamo arrivare a una ripartizione dei fondi a fine d'anno e sapere allora quali sono i criteri in base ai quali si ripartono i fondi, e sono i criteri in base ai quali noi ci saremmo dovuti comportare ab inizio, questo è ex ante, questo naturalmente non è possibile, può succedere soltanto in un paese come il nostro. Ma se posso, noi il nostro sistema è buono perché è un sistema appunto vario, molto vario. Non è vero che tutti vogliono fare tutto, perché facciamo varie cose e questo non deve essere possibile. Però, ci sono atenei generalisti, atenei tematici. Sì, però, signor rettore, se andiamo a vedere la proliferazione di sedi, discipline e insegnamenti, come no, più o meno tutti hanno voluto fare quasi tutto. Questo è vero, ma adesso si è posto rimedio, come voi sapete, oramai il numero degli insegnamenti, come il numero dei corsi di laurea, ha avuto un notevolissimo decremento, stiamo ancora ascoltando. Noi per esempio abbiamo dato nel sud vita a una federazione di 6 atenei e ci stiamo accordando perché presso di uno si concentra un determinato costo. Presso, sì, stiamo aspettando da un anno che il ministero per finire. Però se posso, vorrei dire una cosa. L'anno scorso siamo arrivati a 11.200 nostri laureati che sono andati fuori. Un'altra vexata a questo, che era la cosiddetta fuga dei cervelli, espressione che non mi piace, ma comunque... Quanti ne ha tirate? 11.200 sono andati fuori trovando una posizione più che decorosa, tra l'altro con un salario d'ingresso che di gran lunga... Quanti superiore. Ne ha tirate? Perché qui il problema è questo paese, che noi bisogna integrare immigrati. Noi per esempio anche in Lombardia ne riusciamo ancora ad attirare e integrare troppi pochi. Questo sono d'accordo e noi non attiriamo, però vorrei dire, questi 11.200 sono stati presi e siccome noi spesso siamo esterofili e diciamo che altrove quando riprendono nel migliore dei modi. No, ho capito, capita anche da noi. Ma nessuno vuole disconoscere, nessuno vuole disconoscere su questo in merito. Professor Sapelli, la sua conclusione, tentiamo di avere un anelito noi che siamo minoritari, di far capire che abbiamo una possibilità di vincere. Oscar, e dovrebbe essere drastica che un po' di utopia. Io sono contrario a queste agenzie di valutazione che generalmente vengono fatte da delle persone non qualificate, quindi non offendo nessuno, ma che arrivano lì per una serie di omofilie, di nomine che non si capisce come arrivano. Senza offendere nessuno, saranno tutti bravissimi, saranno tutti cervelloni. Credo che bisognerebbe avere una base per cui lo Stato ti dà dei soldi, il resto te lo devi guadagnare tu. Però se non facciamo questo decadiamo. Sono d'accordo. Formiamo dei bamboccioni, come diceva un compianto amico, formiamo dei ragazzotti, formiamo questa università così com'è adesso, che non va bene. Aveva ragione Rousseau. Le arti e le scienze possono anche fare male. Io vedo giovani che escono dall'università molti più rimbambiti e rincoglioniti di prima. Se non avessero fatto l'università, si fossero messi a fare un lavoro intelligente a cui univano il senso alla funzione, sarebbero stati bene. Cioè non è mica detto l'università. Anch'io credo che l'innalzamento solo della percentuale di chi ha diploma universitario non credo che sia quello il punto. Il problema è avere vocazioni produttive soddisfatte rispetto a tipi di specializzazione del paese. Questo è, secondo me, il vero punto su cui siamo rimasti in posizione. Ma questa sarà la grande illusione dell'università di massa. Luca da Ravenna, come la pensa, Luca da Ravenna? Buongiorno. Dica. Vorrei che lei dicesse anche il lavoro che faccio, se lo fa fare a me, perché credo. Mi chiamo Luca Corelli Grappadelli e sono professore ordinario di fisiologia degli alberi all'Università di Bologna. E che pensa? Così il professor Sapelli non raglia contro la mia disciplina come ha fatto su quella del paesaggio. Va bene, adesso non entriamo nella lotta. Giannino, mi scusi, perché sono anche membro da 6 anni del comitato di valutazione del Consiglio delle Ricerche in Agricoltura, che è la galassia degli istituti e centri di ricerca dell'ex Ministero dell'Agricoltura, sì. Quindi mi occupo di valutazione scientifica sul campo. E avrei alcuni contributi, se lei ha piacere di sentirli. Uno è questo, Sapelli e Petrocelli dall'altra parte mi sembra sia perfetta antitesi e descrivono bene il mondo accademico del quale faccio parte, cioè la concezione della perfezione teorica a Bari, dove si fanno dei discorsi di... dall'altra parte un Sapelli che meno un po' delle tramacche e forse delle volte... Ma lei come la pensa rispetto alla descrizione degli altri? Allora, 3 cose. Era il dibattito per cui ho chiamato, era sul valore legale. Tenerlo o levarlo? Scomparso. Io lo toglierei. Secondo punto, no. Devo dirle che stiamo scrivendo. Secondo punto? Secondo punto, sulla valutazione...